mi fate parlare. E che vuoi dire sulla, sul Colorado? Sono aumentati. Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione ma è tua. Chi l'ha detto? Ma scusami un attimo, perché? No, ragazzi, perché mi dici? Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare. Ma che c'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? La propaganda della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma siete che droga? Ma quali spacciatori? Ma che sei impazzito? Fare il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma buonasera, buonasera, miei piccoli schifosini. Mi senti, Giuseppe? Ecco, no, buonasera, io stavo d'accordo con Parenzo sul discorso dei quattro immigrati che hanno stuprato quella polacca. Vede, cercavano un po' di felicità, se ne sono accontentati solo di una, dai. Perciò cercano la felicità, come dice quel cornuto di Parenzo. Ma dai, quella viene qui in ferie col marito, bella figa, se ne va in spiaggia. Perché non ci mandava Parenzo a luna di notte, a mezzanotte, a fare una bella passeggiata sul lungomare di Rimini? E poi sotto le stelle, e poi ti arrivano quattro figli della mignotta e te superano la ragazza. Parenzo è a favore dei criminali? No, non è a favore dei criminali, è a favore di questi che vengono, vanno a casa, dateci casa. Di questi è a favore Parenzo, capito? Ma che denti sono, ma come faccio io? Sta zitto, cornuto, portaci tu vuoi a fare la passeggiata e poi vedi quello che te fanno. Capito, stronzo, stai zitto, non parlare, non dà sempre ragione a sti quattro marocchini. Non si sta interloquendo questo signore, scusami. Non lo so, non con te, Parenzo, Parenzo, uomo del secchio, uomo del secchio pieno di merda, stai zitto, fammi parlare. E niente, volevo dirti solo una cosa. Per tutti coloro che chiamano Parenzo, c'è un nuovo modo di chiamarlo. Mantecato di merda. Mantecato di merda. Mantecato di merda. Merda. Hai visto Macronne? Hai visto? È meglio lui della Le Pen. Allora, caro David, come saprai, c'è sì, grande scandalo per questo titolo di Libero di oggi, no? Beh, certamente. Dopo la miseria portano malattie. Immigrati, no, è una cosa vergognosa. Aspetta, vergognosa. Immigrati affetti da morbi letali. Immigrati affetti da morbi letali diffondono. Ridi pure tu. Ma certo, ridi Dio, perché è straordinario. Ridi pure immigrati affetti. Poi si va da stuprano, c'è un elenco, dice stuprano, ci infettano, ci portano via il lavoro, poi cos'altro ancora fanno? Immigrati affetti da morbi letali diffondono infezioni, basta con una zanzara, aspetta, è stata una zanzara, non un immigrato, è stata una zanzara, un animale, hanno intervistato, io oggi non voglio parlare di questo, poi chiudere la trasmissione per cortesia, così la gente si va a informare, la gente si informa, adesso chiudi la trasmissione e andatevi a leggere chi è stato fammi finire, basta che una zanzara, te lo prometti che chiudiamo questa No, non chiudiamo. Non si può parlare di questa cosa. È vergognoso quello che hanno fatto in questo. Basta che una zanzara punga prima un malato e poi uno sano e quest'ultimo muore. Aspetta, il governo se ne disinteressa, insiste con l'accoglienza. E poi i verbali dello stupro di Rimini, violenza oltre ogni immaginazione e doppia penetrazione. C'è scandalo, anche per, c'è scandalo anche per questa cosa scritta, certo, doppia penetrazione. Diranno, ma no, male, è scritto nelle carte, ma quello è Sallusti, scusami, quello è Sallusti che è normale, è scritto nelle carte, doppia penetrazione di questi immigrati che come sappiamo sono anche molto dotati e quindi fanno doppia penetrazione, normale, abbiamo scritto la verità, ma è una vergogna, è uno schifo questa roba qua, questo è uno schifo, posso dirti che è uno schifo, ma scusa, ma condividerai anche ma tu se che c'è uno stata schifo. Doppia penetrazione, perché ma non bisogna scriverlo? È uno schifo. Sono i verbali, non vanno, i verbali non vanno bene. Arriva l'altro. Vanno bene solo quando c'è Berlusconi di mezzo, ma i verbali. C'è, ma cosa c'è? Va ma bene, cosa dai. C'è? Sono cosa... i verbali, che dai. Che imbarbarimento che c'è, che imbarbarimento. I verbali dicono: la turista polacca, venivo girata su un fianco e penetrata da due di questi criminali, sia in vagina sia nell'ano. Poi altra testimonianza della trans peruviana: tu chi cazzo sei, uomo o donna? Tu che hai, la figa o il cazzo? Avrebbe detto il signore Butungu. Se c'è il cazzo ti ammazziamo. Questi sono i verbali. I giornali riportano i verbali come da tanti anni a questa parte. Qual è il problema? Dov'è il problema? Dov'è il problema? Dov'è il problema? Violenze disumane e doppia penetrazione. Da una parte per quella cosa che riguarda Rimini. E questo collegamento tra i due ragazzi del Burkina Faso, collegamento che esiste, reale, concreto, tra due del Burkina Faso e la malaria. Non è che hanno detto, poi sì, dicono, portano le malattie. Ma quelli sono titoli, portano le malattie. Centinaio, Lega, un cittadino del Trentino Alto Adige non porta malattie. Uso un eufemismo, un cittadino grazie. Del Trentino Alto Adige non porta le malattie. Ecco, la difesa legittima del Trentino. No, non ho mai visto, cioè, arriva da un cittadino del Trentino Alto Adige? No, e di conseguenza l'articolo... Comunque, è una questione su cui bisognerebbe vaccinarsi. Io devo dire... Avete sentito la voce di Gennaro Migliore, ex Rifondazione Comunista, adesso nel PD. Il titolo di Libero è un orrore. Dopo la miseria portano le cioè i migranti malattie. Portano le malattie. Ecco, partiremo da qui con il direttore di Libero e che poi orrore. Nella seconda parte. Che orrore, dice Migliore. Che orrore, Parenzo, mamma mia. No, mica l'ho fatto io il titolo. Chiederemo che conto orrore. A Senato. No, che orrore, lo dico all'ordine dei giornalisti. Ecco. Addirittura si invoca l'intervento della censura. Allora, vediamo la giustificazione di Libero, va, più tardi avremo anche il signor Feltri. Senaldi, no, Senaldi era da me ospite. Credo, sentiamo Senaldi. Che relazione c'è tra la malattia e il migrante? Questo che non si capisce. C'è una relazione estremamente diretta quando è il migrante a contagiarti. La zanzara, appunto, il migrante... E poi appunto la bambina, e quindi la bambina è morta. Dove ha preso il migrante la malattia? In Italia? No, l'ha presa nel Burkina Faso, il suo paese d'origine. È un titolo crudo ma estremamente fattuale, è quello che è successo a Trento, dove una bambina di 4 anni è stata ricoverata in ospedale per tutt'altre ragioni. È un dato di fatto, no? La malaria non esiste in Italia, è stata completamente debellata ed è stata portata da questi due ragazzi, ed è stata il viaggio di questi due ragazzi è stato letale per la bambina di 4 anni. Allora, c'è in corso una battaglia, caro Parenzo, in un posto vicino Napoli che si chiama Miano, contro i Rom, tanto per cambiare argomento, i signori Rom, ecco, i quali sono stati cacciati, sgomberati dai loro accampamenti vicino a Scampia, anzi a Scampia, e vogliono dare a questi Rom una caserma a Miano. Ora tu dimmi una cosa, no? Cioè, i campi Rom smantellati e bisogna per forza trovare un posto a questi Rom? Bisogna per forza trovare una casa? Non c'è dubbio, bisogna dare... siccome sono Rom napoletani, ho detto tutto, siccome sono Rom napoletani... Ma che c'entra? Sono Rom? No, sono italiani. E allora, siccome i campi Rom giustamente sono stati smantellati a Scampia dopo un sacco di tempo, andassero a cercare, i signori Rom, una casa come tutti noi. Cioè, bisogna bussare alle agenzie che trovano la casa, bisogna leggere gli annunci sul giornale, bisogna magari avere degli amici che affittano la casa. Come facciamo tutti noi? Sono italiani? Sì. Hanno diritto alle case popolari? No, sono in graduatoria? Forse. Intanto si cerchino una casa da loro. Perché dobbiamo dare una caserma ai Rom? Cioè, spiegami, perché bisogna dare una caserma ai Rom? Mi dai una spiegazione? Intanto, certamente, intanto una caserma è un luogo che più utile che sia adibito a questo piuttosto che ad operazioni militari totalmente inesistenti. Quindi, ma che c'entra? Dire, una caserma? È evidente, ma cosa che c'entra? Una caserma è più utile per i senza tetto, è evidente che una caserma, come ce ne sono ma tante, questi sono, queste sono persone che hanno denaro, che hanno del denaro. È più utile che i Rom siano dentro queste caserme, dentro queste strutture, piuttosto che in mezzo a una strada, in queste bidonville, in questi accampamenti di fortuna in cui rischiano anche peraltro di morire con le bombole antigassi, i bomboli delle gas, i topi che allora? Corrono come fosse il circuito di Monza. Insomma, voglio dire, le caserme possono servire anche questo, anzi l'utilizzo loro migliore è esatto, che non è Gennaro migliore, ma l'utilizzo migliore delle caserme è darle ai Rom che sono stati già cacciati dai campi Rom, ai Rom sfrattati, peraltro quei Rom di cui tu facevi riferimento prima hanno subito l'incendio del loro campo. Io l'ho raccontato. Ma questa è un'altra c'era cosa, il rischio che c'entra? Che quei Rom finissero a Scampia, quindi si aggiungesse problema a problema. Tu ti immagini cosa vuol dire portare dei Rom a Scampia? Voglio dire, già lì c'è una situazione, diciamo, in cui la legalità non è esattamente. Ma io però voglio farti sentire una cosa. No, però voglio farti sentire una cosa. Miano contro i Rom. Senti. Vogliamo sapere questa gente che cazzo vuole da Secondigliano? Se li devono portare a casa a letto con le mogli loro! No, Rom, solo i Rom ci mancano, poi stiamo a posto. Caccia il Rom, fuori il Rom. Sta dalla pizza, i po', sanno la gente, gli anziani, che non vanno a mangiare. E poi non sono i 4-500 euro. Ma che cosa, che caso, ma io non ho capito nulla, comunque protestano contro i Rom, qui non ce li vogliamo. Caccia i Rom, portateli a casa nel letto con le vostre mogli. Miano contro i Rom, una cosa incredibile, dai, questa è l'Italia, ragazzi. Non c'è scampo, non c'è salvezza, non c'è possibilità. Siamo un paese finito, morto, irrecuperabile. Siamo irrecuperabili. Alcune zone sono irrecuperabili. Ma senti quello che viene fuori da una signora che si chiama, non mi ricordo come, Caterina Carmona, a Licata. Licata, ragazzi, Licata, dove l'ex sindaco, come sai, ha lasciato perché è uno di quelli che si oppone agli sfratti, no? Agli sfratti, scusa, alle demolizioni. Senti che cosa dice, senti che cosa dice questa qua a questo sindaco, senti, a questo ex sindaco. Sa cosa merita? Sa cosa merita? E gente qua che si è fatto sacrificio, abbiamo pagato altro che tasse. Il sindaco ha subito anche un attentato. E perché non l'ammazzavano? A chi? Al sindaco. Perché non l'ammazzavano? Perché non l'hanno ammazzato? Ancora, ancora, senti. Qualcuno, io ho sentito anche gente che fuori, sai cosa ha detto? Finirà prima o dopo la scorta, finirà il suo mandato. E a quel punto cosa succede? Che qualcuno della mafia lo toccherà. Io non so se questa qua si è augurata, perché era durante l'area che tira, non so se questa qua si è augurata per davvero la morte del sindaco. Cioè, no, ma è incredibile che lo dica così a microfoni, a telecamere accese, a cioè quando aperti, finirà la scorta la mafia lo toccherà. Ma questa è l'Italia, ragazzi, ma di che vogliamo parlare? Siamo irrecuperabili, questo è l'unico pozzo di libertà, è l'unica zona di libertà. Parenzo, prima o poi te vengono a scasso tutto. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Ridicolo Parenzo, era a favore di Strada e a favore di Minniti, ora sono uno contro l'altro e non sa più cosa fare, non sa più a chi dar ragione, se dar ragione a Minniti o dar ragione a Strada. Sei proprio un pagliaccio, Parenzo, sei un pagliaccio, pagliaccio. Beh, questo non ha torti, eh. Tu ti sei un po' barcamenato tra strade e minniti. Bisogna scegliere. Quando uno ti dice sbirro, quando uno ti dice che hai buttato, che hai buttato in mare, allora... in diretta. No, oggi peraltro ho detto anche in diretta la trasmissione mia, ma non voglio parlare della trasmissione della Sette, non è quello, questo è il tema, è l'uovo. Però se tu mi chiedi, oggi ho preso chiaramente posizione. In passato, se voi dite che posizione avevo rispetto al codice Minniti sull'ONG e all'ONG, sto tutta la vita con l'ONG, le due cose non sono in contraddizione. Ma come non sono in contraddizione? Ma che dici? Non mai di offendere Minniti, di chiamarlo sbirro perché non lo è, ma perché che è un uomo dello Stato, è un ministro, sta agendo nella, ovviamente nel massimo del modo della legalità. Non condivido quella criminalità dell'ONG, ma mica l'ha fatta lui, dai. Non da lui. Lo strumento del codice, secondo me, ha portato. Vabbè, dai, adesso non è che devi fare il comizio. Ecco, allora cosa vuoi? Se tu mi dici è uno sbirro, no, è una brutta espressione che non mi piace, che è un'espressione anche tendenzialmente violenta. No, violenta, sbirro, violenta. No, io dico tendenzialmente, certo, violenta, cosa che è un linguaggio da intanto un linguaggio che usavano, che usano. Vabbè, ho capito. E intanto in questa Italia sta per arrivare il generale Pappalardo. L'11 settembre i Forconi 2.0. Li metterò nella garitta dell'Italia per impedire che gente che viene da fuori distrugga il nostro paese, lo annienti, lo faccia a pezzi, sostituisca la popolazione italiana. Adesso basta, non ne possiamo più, dobbiamo preservare il nostro paese. Ce ne dicono di tutti i colori, addirittura che ho ricevuto soldi da uno sceicco per fare il colpo di Stato. Se avessimo i soldi noi avremmo organizzato pullman, panini. Non abbiamo neanche gli occhi per piangere. Non abbiamo nemmeno gli occhi per piangere! Con la gente che viene da ogni parte del mondo perché qualcuno ha deciso di sostituirci. Ma con il Movimento Liberazione Italia questo non accadrà. Vi aspettiamo tutti quanti. Sì, certo. L'11 settembre, all'ora 15, cari amici, tutti a Roma! Li faremo sgomberare questi abusivi governanti e parlamentari per restituire libertà, legalità e democrazia al nostro paese. Viva l'Italia! Ragazzi, siamo qui, l'ex Pappalardo, questo qua. L'ex generale, vogliamo i colonnelli di Tognazzi. La roba incredibile. Come chi è questo qui? L'ex generale Pappalardo, sì, l'ex generale dei carabinieri Pappalardo. Me lo fai riascoltare per cortesia, che mi metti di buon umore. Me lo fai riascoltare dopo. È una cosa manicomiale, manicomiale. È un fatto generale. Questo signore qua è stato generale dei carabinieri, capito? Fabio da Palermo, vai Fabio. Ciao, dimmi, Fabio, dimmi, hai la mia stima sia come osservatore che come... Vabbè, dai Fabio, vai avanti, non ce ne frega. Invece volevo... perfetto, invece volevo dire a quel cornuto di Parenzo... Ma che ha fatto adesso? Quando parli, buonasera, grazie. E quando parli del fascismo, dovresti alzarti in piedi e lasciarti la bocca con l'aceto. Ma perché? Che ha fatto? Perché? Che come cosa? Perché? Perché? A parte il fatto, perché Parenzo dice un oceano di minchiate che tra l'altro secondo me paga pure lui per essere presente in radio, perché non è possibile che c'è. Ma Fabio, qual è il punto? Non ho capito. Perché te piace ancora Mussolini? Sei nostalgico di Mussolini? Certamente. Ma naturalmente. Certamente. Ma naturalmente. È naturale. Allora, immagini un dibattito simile in Germania. Ma in Germania non sarebbe possibile. Però, in Germania non sarebbe possibile nella radio omologa della Confindustria. Ma Mussolini è italiano. Non sarebbe possibile. Mussolini è italiano e si è battuto tutta la vita per gli italiani. È possibile che uno Fabio chiama e incita al fascismo. Non è Fabio, possibile. Però tu devi avere il coraggio. Devi avere il coraggio. Coraggio, dai le tue generalità. Fabio, come ti chiami? Tutto. Fabio? Fabio Presti Giovanni, qual è il problema? Fabio Presti Giovanni, nato il? 86. 86? 1970. 86, 1970. Residente in Palermo, non diciamo dove, naturalmente, comunque residente in Palermo, no? Immagino. Perfetto. Allora, devi dire, io mi proclamo fascista. Io difenderò sempre. Devi dire le cose. Coraggio di Mussolini. No, devi dire io sono fascista. Io mi dichiaro fascista. Oh, benissimo, Parenzo, che abbiamo tutto? Abbiamo tutto? Abbiamo no? tutto. Con questo audio registrato. No, però Fabio, ora, fa, però Fabio, non occorre neanche la denuncia, perché questo sta commettendo un reato. Ma non è vero, ma no, ma chi se ne... Ma io vorrei io posso dirti una cosa, questo, io lo abolirei. Questa radio è diventata ormai una radio dai tempi dei Balilla. È una radio anni 30. Ma manca solo il tutto Balilla, ma se tutto quello che funziona in Italia l'ha fatto Mussolini, le strutture e le infrastrutture funzionano grazie a Mussolini. Non diciamo cazzate, dai. Se è stato per gli amici dei comunisti, praticamente vi sareste mangiati tutte cose. Scusami Fabio, io voglio capire una cosa. Parenzo, la cosa molto semplice è questa. A certi reati, l'apologia, le cose vanno eliminati però. Vanno eliminati, ma mi pare normale. Vanno eliminati. Ma in Germania non sarebbe possibile. Ma vanno eliminati, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? L'Italia su Mussolini. Cioè, tu vorresti una cosa aspetta. Gravissima che hanno proclamato di fare quei signori di Forza Nuova, la marcia su Roma. Sì, la marcia su Roma. Ma quelle cazzo di marcia su Roma, quelle sono delle pagliacciate. Ma quelle cazzo di marcia su Roma, quelle sono delle pagliacciate. Che giorno vogliono farlo? Il 28 ottobre. Il 28 esatto, giorno. È data peraltro. Vabbè, il 28 ottobre vogliono fare la marcia su Roma. Questa cosa qui, in un paese civile come il democratico come la Germania, non sarebbe possibile. Che dovrebbe accadere? Arrestarli uno a uno. Ma come che dovrebbe accadere? Dunque, anche Fabio va arrestato? Anche ma Fabio? Non so se va punito, sicuramente. Ma sicuro adesso arrestato, magari il carcere no. Va mandato nel centro di Lampedusa a pulire il sedere ai migranti. Loro devono andare lì. Aspetta, fermo. Allora Fabio, allora? Sì, dimmi. No, invece tu, Parenzo, con la tua mentalità, andresti sicuramente premiato. Questi extracomunitari che hanno, non tutti, ma la stragrande maggioranza, hanno letteralmente massacrato la nostra nazione. Adesso non esageri. E tu ancora continui a dire che devono venire. No, lui ha detto una sola cosa, ha detto che tu dovresti andare a pulire il culo ai migranti a Lampedusa. Questo è sicuramente lui, prendere a calci nel culo e rimandarli direttamente in Libia. Fabio, devi dire una cosa. Io sono fascista, dillo. Io sono fascista, no? Fermi tutti, problema. Fermi tutti. Viva l'Italia. Il segnale orario vi è offerto da Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta La Zanzara. Vai tu, se volete parlare al telefono che a Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701. Naturalmente. Mi sono trasferito a Copenaghen e lavoro in questa società di investimento londinese. Non potete capire la goduria di essere l'unico italiano in mezzo ad un branco di 10 danesi coglioni e poter canticchiare serenamente senza che nessuno capisca un cazzo. David sta andando a trans. David sta andando a trans. Tu sei una pezza di merda, sei. Crociani, ascolta. Questi non hanno capito un cazzo di quello che sta per succedere. Ce li mangiamo vivi, li arrostiamo nelle piazze. Questa gente qui la deve smettere di mangiare a spese nostre. Li vogliamo vedere bruciare. Caro David, senti, la senti la voce di qua? L'ho sentita, ma io non ho più neanche il fiato per arrabbiarmi, perché non... Perché cosa? Ti devo dire, Cruciani? Dimmi qualcosa. Ti devo dire che è uno schifo. Ti devo dire che questa gente, che però sono pochi, voglio rassicurare la gente, cioè chi legge libero, pochissimi, per fortuna. Ah no, ma adesso non dire questo, quindi, dai. Minoranza assoluta. Perché c'entra? Ma mi piacciono molto, sono giornalisti, colleghi simpaticissimi, ne conosco anche molti di più. Ma sono un orrore, secondo te sono un orrore? No, quel titolo è un abominio, ma è un orrore, bisogna avere il coraggio di dirlo. Bisogna incitare la gente a raimizzarsi, sarebbe Christian Raimo. Bisogna diventare tutti dei Christian Raimo, questo è l'appello che faccio. Come a Radio Londra, siamo in un periodo, io uso Radio 24, che è un'ottima radio, e questo, ma no, come Radio Londra, io mi sento come Radio Londra, faccio l'appello al popolo. siamo tutti Crystal Raimo, diventiamo tutti nelle nostre città, nei nostri paesi, nei nostri piccoli comuni, dei piccoli Crystal Raimo. Andiamo lì e sfasciamo il giocattolo, spieghiamo che non è così, dobbiamo diventare tutti dei Crystal Raimo, andiamo a studiare un'università dei Raimo, ci bisogna proprio insegnare il dissenso. Ma la gente non sa chi è, dai. Adesso andrà a vederlo su Google, avranno googleranno il nome. Marco da Napoli, dai, Marco da Napoli. Pronto? Dimmi Marco, dimmi. Sì, allora no, volevo intervenire il fatto del discorso del generale Pappalardo. Che dici? Che, del cioè, che non capisco qual è la cosa negativa di questo discorso. Ragazzi, ma siamo a livello manicomiale, cioè siamo a livello manicomiale. Ma che manicomiale? Ha manicomiale. Detto una cosa vera e santa. Ma quale sarebbe la cosa vera? Non che siamo, cosa? Che non siamo in grado di gestire questa situazione, questo è il succo del discorso. Ma dai, ma ti rendi conto l'assedio al Parlamento? Cioè, ma siamo arrivati a questo perché siamo oramai siamo in ma tu in sei, un fase di sei un militare? Un ex, non c'entra nulla, non c'entra nulla. Un ex militare sei? Non è, ma questo non c'entra nulla. No, ma okay, sei un ex militare o no? Sì, vabbè, ma sì, sono un ex militare, ma questo non c'entra nulla con quello che voglio dire. Siamo arrivati allo stremo, perciò queste considerazioni. Non siamo in grado di gestire la situazione, cioè, perché i nostri governanti non sono capaci, sono inetti. Allora quindi bisogna cacciarli dal Parlamento. Ma scusa, ma se uno non è in grado, che ma chi che lo decide? Chi lo decide se uno va sfrattato dal Parlamento? Poi che vuol dire sfrattare dal Parlamento? Non vuol dire nulla. Sono cose manicomiali, sono cose da manicomio. Assolutamente. Perché una persona la cosa drammatica è la lucidità con cui dice queste cose, cioè la voce apparentemente lucida con cui no dice, ma assolutamente è normale, dice è normale, è normalissimo, sì, la voce non è che ha la voce alterata, cioè mentre tu senti Mauro da Varese capisci subito che sono due poveretti, due paracriminali, due persone malate di mente che sono state quelle sì punte da una zanzara che gli ha mandato in pappa al cervello, arrivederci grazie. Ma quello è un caso specifico, lo capisci dalla voce, senti come fa capisci, vedi la vita che è uno spostato, mentre questo qui è ancora più pericoloso perché ha la voce apparentemente normale. Ecco, questo è il Federico da Roma, Federico da Roma, Federico da Roma, vai. Pronto? Dimmi. Salve, buonasera. Vorrei un attimo intervenire per quanto riguarda l'articolo del giornale, quello sulla violenza di Rimini. Sì, però parla con non col viva voce, amico mio, no, con l'auricolare, dai. Non ho il viva voce, non ho l'auricolare. Aspetta, vabbè. Forse perché sono in macchina, scendo dalla macchina. Scendi dalla macchina. Però non rimbomba. Vabbè, dai. Volevo semplicemente dire che forse quello che è stato scritto non è che dà qualche indicazione in più, non è giornalismo, è sciacallaggio secondo me. Ma in questo cosa, caso cosa? Ha ragione, c'è il dio della doppia penetrazione. Sì, ma ragazzi, ma è un titolo, ma è un titolo crudo che ci può anche stare, è un titolo crudo. Ma scusate, è un titolo crudo di una realtà, di una cosa presa dai verbali, ma ragazzi, ma i titoli crudi alcune cose che sono nei verbali non andrebbero forse pubblicati. Io non lo so questo si può discutere, ma se uno se hanno i verbali in mano e si parla di non è che voleva essere presentata come una cosa positiva, viene presentata come una cosa turpe, come una schifezza, come una barbarie. Però permettete che se una ragazza è in tribunale e viene fatta una descrizione del genere, ma quella verrà fatta per forza, ma quella volta verrà fatta per forza, perché quando uno fa una deposizione, quando c'è un processo, si deve andare nei dettagli di quello che è accaduto. Però allora, dal punto di vista della cronaca, non danno alcuna notizia in più. Ma ragazzi, ma questo qua è una punto di vista? Vabbè, no, per carità. Poi, Stefano dalla provincia di Roma, dai. Ciao Giuseppe. Dimmi. Senti, innanzitutto io sono fascista, intanto che Parenzo se ne faccia una ragione. Che ma ragazzi, ma se voi volete dirlo, ditelo, ma va benissimo, per me non c'è nessun problema, alcune norme andrebbero anche cancellate. Cioè, però è folklore, che vuol dire sono fascista? Che vuol dire, Stefano? Cosa vuol dire? Nei nostri valori, cioè. Ma valori quali? Quali valori? Ma quali valori di che cosa? Della dittatura? Ma i valori di che cosa? Della dittatura? Tu non potresti mai. Che qui non siamo in una dittatura, eh? A te, non fate di che ti è morta la maestra il primo giorno di scuola, insomma, dai. Cioè, capisci bene? Se lo dice Parenzo, lo posso pure capire che non capisce niente. Ma te che un attimino. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Tu non potresti manco parlare, questa trasmissione non potrebbe nemmeno esistere. No, se ci fosse quello che tu ti auguri, quello che tu ti auguri. Ma io comunque, se ci sei tu o non ci sei tu, io comunque parlo. Cioè, capisci bene qual è la cosa? Che c'entra? È questo il fatto. Ma cosa c'entra? Io sto dicendo un'altra cosa. Tu sei, ti dichiari fascista, ma non potresti nemmeno parlare durante il fascismo. Non potresti dire queste cose. Non potresti dire nulla. Ma che di? Ma come, perché? Perché è una dittatura? No, dimmi te perché. No, perché io forse non lo capisco. Io sono ignorante. Ma perché? Non ho capito. Il dissenso era autorizzato? Era autorizzato durante il fascismo? Di che parli? Ma figurati, ti mettevano in galera. Dai, su. L'oro di Riccio, forse vedi, noi confondiamo, come fa Parenzo nel suo cervello piccolo, che noi confondiamo il nazismo con il fascismo, cioè è molto discriminante la cosa. Non mi farò trascinare in una discussione storica con un imbecille che telefona alla Zanzara, non mi farò trascinare. Giacomo dalla provincia di Latina, Giacomo dalla provincia di Latina, vai Giacomo. Parenzo, dimmi, Parenzo. Giacomo, stai calmo Giacomo, dimmi che cosa c'è, dimmi. Sì, calmissimo, Parenzo. No, io volevo sapere una cosa da lui, con quella vocetta, diciamo, senza esprimermi, se andavi in giro a Rimini, con quei quattro negri, ma cosa c'è? Cosa vuol dire se andava in giro? Con quella vocetta, no, ma senso... fino in fondo, sono curioso ora, vada fino in fondo. Ascoltami. Vada fino in fondo con ragionamento. No, ascoltami. Io parlo fino in fondo. Allora, prima di dire a un fascista, che io ho sentito che l'hai detto, no? Che se deve lavare la bocca con l'acido, tu lavatela con l'acido. Ma la perché? Bocca. Ma perché? Perché secondo me, oggi come oggi, ci vorrebbe chi? Il fascismo. Bene. O il nazismo. O il nazismo. Pure per fare pulizia. Anche... No! Sei anche nazista? Sei anche nazista tu? Sei anche nazista? Non lo dico per telefono, posso esserlo come no. Ma che vuol dire? Hai detto che ci vorrebbe il nazismo? Che sei codardo? Che sei vile? Non ho capito, non lo dici? Prima dici ci vorrebbe il nazismo, anche il nazismo, e non dici che sei nazista o fascista? Dillo, sono fascista, anzi Giacomo, nato io in... Devo dire. Giacomo, devo dire. Sì, sono razzista, perché tu anche non lo sei. Anche nazista, io no. Giacomo, allora, no. Giacomo, Giacomo, cognome? No, sì, cognome. E perché no? A che ti serve? Giacomo? Vorresti sapere il cognome, così qual vengono è? Tutti i romani qui con un mitra, capito come? I romani col mitra, ma dove che stiamo? Guarda, perché vuoi il cognome mio? Ma... non ho capito. No, Giacomo, cognome della di nascita, così, sono curioso. Se non hai problemi a dichiararti Giacomo fascista... Giacomo Leopardi. Sì, Giacomo Leopardi, mio nonno era Giacomo Leopardi. Salvatore Latina, vai. Buonasera, niente, volevo rispondere a quell'essere quindi, il mondo questa di Parenzo. Questa trasmissione fa una grande opera di disvelamento, Parenzo. Di disvelamento, di disvelamento, insomma, sai. No, di disvelamento. No, è il disvelamento. L'amante di valore sociologico, in realtà, assolutamente. Valore clinico, o come direbbe Sallusti, un caso psichiatrico. Caso psichiatrico. Salvatore Latina, quando vai. Buonasera, niente, volevo dire, volevo rispondere a quell'essere in mondo di Parenzo che dice che sì, bisogna buonasera. Dare... Buonasera, bisogna dare queste cazzo di case, queste cazzo di caserme, a questi cazzo caserne, di caserne, certo, caserne. Dagli casa tua, perché ti deve, cioè ti risulta che io e tanti italiani di questa cazzo d'Italia che è stata invasa da questi cazzo di migranti. Calma, sì. Sì. Non abbiamo né casa e né lavoro, perché io il 5 ottobre verrò sfrattato perché non ho lavoro. E a me ti dico, Parenzo, ma chi cazzo me la dà la casa? Me la dai tu? Parenzo, io no. Io, allora, questa, io no. Cominciamo, come mai? Cominciamo con lo sfatare questa stronzata. Cominciamo con lo sfatare. No, glielo spiego io. Glielo spiego io, guardi. Glielo spiego io, se pilota. Glielo spiego allora, io. Io deve... pago le tasse. Io pago le tasse perché lo perché le pago e anche tante. Perché pago tante tasse. Perché guadagno e pago tante tasse. Tutte fino all'ultimo. Perché lo Stato risolve i problemi e non perché rubino. Allora, quando uno mi dice che li prendi a casa tua, dice una stronzata. Perché io come pago il sistema sanitario, che per fortuna per ora uso poco, mentre lei dovrebbe usarlo tantissimo, perché è un malato di mente, allora io potrei dire, ma perché io devo pagare il sistema sanitario a questo imbecille che telefona alla Zanzara? Perché eppure lo pago, e non è che mi lamento, dico oh, guarda, c'è beh, questo potresti lamentare. Tu lo sai chi lo paga, scusami, come si chiama questo qui? Come si chiama questo qua? Questo che parla inutilmente, come si chiama questo Salvatore, qua? Come Salvatore, si chiama lei? Salvatore. Ecco, io perché devo chiamare? Perché io devo pagare il sistema sanitario per curare questo imbecille di Salvatore? Me lo spiegate perché? Sanitario. Io non mi vado a curare il tuo sistema sanitario del cazzo, perché io non ho bisogno di nessuna cura. Perché no, io no? Ma lei, ma come no? Ha grande bisogno di cure. Un attimo, fammi parlare, perché io quando hai parlato tu sono stato zitto. No, parla a me e te stai zitto tu. No, Salvatore, un attimo, fermola, fermo, fermo. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Siamo il top. va su. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Parenzo, ma te ti senti? Ma te ti rendi conto che difendi il difendibile? Ma te ti rendi conto? Difendi i zingari, difendi qua. Adesso è arrivato a difendere anche i politici. Bravo Cruciani, vai avanti così. Sono tutti con te. Ma Cruciani, mi sa che ti fanno male le vacanze. Ti sei sinistrizzato proprio. Ma come cazzo ragioni con quella ragazza di Latina che aveva paura dei negri? Ma come cazzo ragioni? Hai paura? Hai paura? Come fai a avere paura? Ma che cazzo dici? Coglione! Vieni a Torino, prendi il 4, quello che passa davanti a Porta Nuova. Pensa a una ragazza da sola là, come fa ad andare in tram, andare da una parte all'altra, che ti guardo in 10 attaccati al sedile, si mettono tutti vicino, che ti toccano, ti sfiorano. E quelle sono violenze, ma nessuno le denuncia. Una ragazza ha paura di prendere i mezzi pubblici. Picciu! Coglione! Allora, amico mio, non è questione di sinistrizzarsi. Che cosa sono queste categorie, questa cazzata pazzesca? Figuriamoci se io mi sinistrizzo. Non è questo il punto. La questione è molto semplice. La ragazza che ha chiamato dalla provincia di Latina, ancora me lo ricordo, credo da Itri, una cosa di questo tipo, se non sbaglio, ha detto io ho paura. Poi io ho chiesto, ma scusa cara ragazza, perché hai paura? E non mi sapeva dire perché. Cioè, se uno mi dice un fatto specifico, no, sai, salgo sempre sulla 91 qua a Milano, sulla circolare, e vengo circondata da negri, io dico, vabbè, allora hai ragione. Oppure vengo palpata di continuo, oppure sono circondata e mi puntano gli occhi addosso e ho paura. Io dico, beh, certo, insomma, sicuramente puoi avere ragione e capisco le tue paure, capisco la tua angoscia. Ma se uno mi dice io abito lì e ho paura, ma scusa, perché hai paura? Non lo so. E allora te ne vai a fare in culo. Non chiami dicendo ho paura quando non c'è un motivo per cui tu debba avere paura. O mi dici una ragione chiara per cui giri di notte e hai paura dell'uomo nero, oppure non ci rompi i coglioni. Molto semplice. Intanto, caro David, il conduttore meteo Chris Dunn scorreggia in diretta. Oh, mamma. Scorreggia in diretta. In diretta. Il conduttore meteo Chris Dunn. Fairly quiet weekend. 88 Mobile, Fairhope, 88 Pensacola. Destin at 88 and 89 degrees in Evergreen at the beach. 87. Oh, my God. Beh, si è sentito chiaramente, si è sentito chiaramente. Però guarda che la scoreggia, per esempio, tu te lo ricordi Tognazzi il petomane? Ma come no, è una dei pezzi straordinari, fallo sentire, è meravigliosa. Beh, sì, stupendo. Sono una cosa meravigliosa. Abbiamo fatto una vacanza a Praga a maggio con tre amici, bevuto birre scorreggiato per tre giorni. Siamo tornati che eravamo rinati. Le scorreggio sono una cosa meravigliosa. Abbiamo fatto una vacanza a Praga a maggio. Tutti quelli che protestano per dire non si può parlare di flatulenza, di meteorismo, Tognazzi, amici miei, film, controfilm, ce ne sono tanti altri, abbiamo ricordato l'altro giorno Fantozzi, non ci rompete i coglioni. Gaetano da Napoli, vai, Gaetano. Ecco, Gaetano, prego, prego, avanti, avanti. Aspetta, però voglio dirti una cosa, Davide, Gaetano, un secondo. Tu te lo ricordi qual è il medico di punta degli antivaccinisti, quello considerato, diciamo, il baluardo degli antivaccinisti? Si chiama Stefano Montanari, no? Stefano Montanari, certo. Sì. Allora, senti che cosa ha scritto sulla bambina morta di malaria. A Brescia muore una bambina di malaria. Aspetta, a Brescia muore una bambina di malaria. Di malaria, sì, di malaria. Di malaria contratta a Trento, fantascienza, no, è la diagnosi ufficiale, o almeno quella comunicata dal regime, dice lui, dal regime. La bambina, 4 anni, di età e diabetica, è ricoverata in ospedale a Trento, entra in coma e viene trasportata a Brescia dove muore. La diagnosi è di malaria, una malattia che da noi non è proprio comunissima come fonte di morte, che è comunque curabile. E che è, dice lui, che è comunque curabile. Stamattina ricevo un messaggio vocale che mi dice che quella bambina diabetica è stata vaccinata secondo i voleri della signora Lorenzin e subito si è sentita male. coma, morte, coincidenza sfortunata, la GlaxoSmithKline sta per lanciare il provvidenziale vaccino antimalarico, che almeno ci auguriamo la signora Lorenzin provvederà a rendere obbligatorio. Cioè lui, oltre a dire, a gettare il sospetto che questa bambina non sia morta di malaria, ma sia morta vergognosa in realtà per i vaccini obbligatori che ha appena fatto. Esatto, sì, no, questo è chiaro, ma è stato cacciato dal Movimento 5 Stelle, non lo so. Ma io non lo so, ma ragazzi, ma è una follia, è una follia questa roba qua. Gaetano, vai. Ok, mi appoggio proprio a questo, è una follia, assolutamente concordo con voi, come una follia il titolo di Libero e l'articolo. Perché qui non si parla più di libertà di stampa, mi permetto di dire, qua è quello è diventato un cacatoio. Ogni tanto vomita un articolo per una volta contro i napoletani, l'ho chiamato l'altra volta su Napoli si bruciano da soli, adesso ci vanno di mezzo le persone di colore su un fatto che non c'entrano assolutamente nulla. Da dove stai chiamando? Da una spelonca? Da una spelonca? Da una grotta? Esco fuori da se no non sentiamo, è molto semplice. Sono uscite fuori la macchina. Ma io non ho capito qual è il punto, è impedito a Libero di fare un titolo? È impedito a Libero di fare un collegamento tra i due signori del Burkina Faso e la morte della bambina? Non ho capito qual è il punto. Io sono d'accordo con Parigi, è vergognoso perché non c'è, dunque secondo te va chiuso Libero? Ma non è un giornale, dov'è la libertà di stampa? Dov'è questa la libertà di stampa? È questa, esattamente questa, esattamente questa. È ogni tanto andare fuori dal coro, fare titoli anche che forzano un po' anche la realtà in alcuni casi. Se mi permetti di una cosa, ti faccio una provocazione. Qual è? Se guarda, te la faccio, la provocazione è questa. Se fosse accaduta questa cosa qui di una bambina morta di malaria a Napoli, io sono certo che il buon Feltri avrebbe titolato in altro modo. Siamo nel processo alle intenzioni. Questo è il processo alle intenzioni. Io non ho capito una cosa. Ci vuole poco andare lontano. Ma io non ho capito. Tu chiuderesti un giornale perché ha fatto un titolo dopo la miseria portano le malattie? Cioè, chiuderesti un giornale per questo? Ma è vergognoso. Ma tu puoi considerare vergognoso? Ma cosa c'entra la chiusura? Cosa c'entra la chiusura? È molto vergognoso. Ma non è più libertà di stampa. E che cos'è? Che cos'è? Non ho capito. È un cacatoio quello lì, questo è. Ma appunto, tu sei legittimato a dire quello che vuoi? Allora, se tu sei legittimato a dire che quello è un cacatoio, uno sarà legittimato a fare un titolo dopo la miseria portano le malattie? Non è così. Non una notizia, non deve inventare, altrimenti fa un altro lavoro. Dov'è la notizia? Ma questo non lo decidi la notizia c'è, innanzitutto la notizia c'è. Ma è vergognoso, siamo alla barbarie questa roba qui, io sono d'accordo con Parigi. Ma quello è un titolo incredibile, ragazzi, anche loro lo sanno. Il direttore Senaldi oggi alla mia trasmissione ha detto sì, sicuramente un titolo un po' forte, un po' esagerato, ma chiusa la discussione. Non so se esagerato, non credo che abbia detto esagerato. Ma no, io... ha detto che è un titolo forte, ma è evidente forte che è una cosa, esagerato un'altra. Ovvio che è un titolo fatto per Gaetano, provocare. Gaetano, ciao, fermi che abbiamo, Felti tra poco. Fermo, Gaetano, ciao. Molto ciao, bene, ciao, questo ciao. È un contesto. Eccoci qui, Vittorio Feltri, buonasera, come andiamo? Buonasera. Ciao Vittorio. Prego. Ciao Vittorio, qui c'è gente che vuole chiudere i giornali. No, ma sicuramente biasimarlo, sicuramente mi pare che senti, sia un Vittorio, diritto secondo dovere. Senti Vittorio, ti sei pentito di aver fatto quel titolo o no? Sì. Tu? A parte il fatto che, come tu sai, io sono il direttore editoriale, per cui non rispondo dei titoli del giornale per il quale lavoro. No, è meglio precisarlo, Cioè non l'hai fatto tu quel titolo? Ma quel titolo io l'ho approvato, nel senso che sono d'accordo sulla sostanza perché riflette la realtà, ma la responsabilità non è mia, visto che il direttore responsabile è Pietro Senaldi, quindi lui poi lo ha approvato definitivamente, lo ha pubblicato e basta. Vabbè, ma lo condividi o no? Ma certo che lo condivido, ma scusa, ti pare che non condivido tutto può succedere. La linea del giornale per il quale lavoro? E che ne so, tutto può accadere. Succedere che uno ogni tanto dice, ma guarda, forse è un po' esagerato, ecco, questo può succedere ogni tanto, che uno riconosca... Cioè, io non ho capito, il collegamento secondo te tra questi due ragazzi del Burkina Faso e la morte della bambina, qual è secondo te? Non esiste alcun legame. Beh no, esiste il legame, concretamente esiste il legame. Nessuno. Vittorio? Ma non so chi autorizzi Parenzo a dare questa interpretazione dei fatti, perché tutto concorre invece ad affermare che quello che noi abbiamo scritto è esattamente la realtà. E lo spiego in due minuti, se Parenzo magari evita anche di interrompere, io posso fare anche in fretta. Vai. In sostanza, cosa è successo? Che nella vicenda che stiamo trattando c'è stata una vicinanza tra una famiglia interamente affetta di malaria e pertanto è chiaro che la bambina che poi è morta, essendo stata vicina a questa famiglia, non può che essere stata contagiata, naturalmente non in modo diretto, ma magari attraverso un insetto, una zanzara, eccetera, e pertanto il problema è che questa famiglia del Burkina Faso, appena tornata dall'Africa, si è portata appresso un'infezione per la quale è stata anche curata ed è riuscita a guarire al completo, mentre la bambina, che non ha avuto una diagnosi precoce, purtroppo è morta. Eh no, questa è vera, questa è così. Cioè, è una ricostruzione assurda, è morta per la zanzara, gli immigrati non ci fanno un cazzo. Allora lasciamo parlare Parenzo. No, lui dice, ma Parenzo... Mi fate una domanda, se poi non posso rispondere, allora vabbè. Cioè, io non ho questa foga sinistra di Parenzo, semplicemente racconto i fatti. Non è che siamo impazziti noi di Libero che facciamo dei titoli inventati e campati per aria. Il problema poi non riguarda soltanto la malaria, perché gli immigrati portino la miseria mi pare un dato di fatto, quindi il titolo è fattuale, almeno la prima riga. La seconda riga è altrettanto fattuale, visto che anche la TBC, non so se questo Parenzo lo sa, i casi di TBC sono raddoppiati negli ultimi 6 mesi, l'hanno pubblicato tutti i giornali, quindi non credo che possa avere dei dubbi su questo tipo di realtà drammatica. Quindi vuol dire che l'immigrazione, tra i tanti problemi che crea nel nostro paese, perché è un'immigrazione incontrollata e massiccia, c'è anche l'importazione in Italia di malattie che erano state sconfitte definitivamente, non solo la malaria ma anche la TBC, e invece oggi hanno ripreso queste malattie a mietere vittime, e quindi sostenere che portano le malattie significa dire la verità, una verità che l'ipocrisia della sinistra in particolare, ma non solo della sinistra, cerca di diminuire, di coprire, non si capisce bene per quale motivo. Allora, è la realtà, il nostro è un titolo fattuale e non può essere criticato. Chi lo critica o è in malafede o è cretino. Allora fermi lì Parenzo per un secondo, aspetta. La zanzara. Allora, caro Parenzo, ti leggo una cosa, e lo dico anche a Feltri, naturalmente, che ha scritto, credo, Maurizio De Giovanni, che cos'è, uno scrittore, se è lui, cioè uno scrittore napoletano. E qualcuno mi spiega come possa definirsi civile un paese che consente a quei due giornali di pubblicare quei titoli in prima pagina, come sia possibile che qualcuno sano di mente vada in edicola e tiri fuori delle monete per comprarli, davvero da brividi. Il titolo del Tempo infatti è assolutamente vergognoso, che hanno giocato sulla parola malaria, la malaria dell'immigrazione, giocando su se non parola. Mi disgustasse cose vergognose, ma che cos'è vergognoso, ma che malattie agli immigrati, robe che si facevano negli anni 30, cioè di quello se stai dando stai dando a Feltri del fascista. Lo stereotipo degli immigrati che portano le malattie è roba da anni 30, roba da che quando sbarcavano a Ellis Island negli Stati Uniti, roba da anni 30, una porcheria. Però oggi l'ospedale, oggi l'immigrato alla malattia è un falso. Le zanzare che arrivano qua, ma sono arrivate con la malaria o la supposta malaria. Infatti i biologi questo dicono oggi sui giornali, sugli altri giornali oggi. No, veramente l'ospedale dice che è lo stesso parassita dei due bimbi infetti, cioè lo stesso parassita dei due bimbi infetti. Parassita, ma il parassita non è l'immigrato. So che ormai sì, però è un fatto che sono venuti dal Burkina Faso o no? Il parassita è la zanzara, non l'immigrato. L'immigrato non trasmette malattie di per sé. Bisogna smetterla di dire puttanate, questo ti voglio dire. E tu, Cruciani, contribuisci a diffondere Vittorio dice che stai dicendo puttanate. No, ma anche tu, ma non è vero, scusami. Vittorio. Sì, ma guarda, sinceramente I discorsi di Parenzo sfociano nell'insulto e basta. Non ragiona, non ragiona, perché anche il Ministero della Sanità ha detto che l'80% dei casi di malaria sono, diciamo, di origine africana. Non è che... Ma non si trasmettono da uomo a uomo, questo è l'errore clamoroso. Nessun ma lo sappiamo, medico... ma sai Parenzo, allora... che lo sappiamo, che se però allora... un insetto... Ma mi... scusa, ti ricordo, se un insetto... punge me che sono ammalato di malaria e poi punge mio cugino, è chiaro che non sono stato io a trasmetterlo, ma è stata la zanzara, ma io sono stato il portatore del virus, ma lo vuoi capire o no? O metto dell'ostia che non sei altro? Vittorio, sì, Davide, non ho capito. Lui sta dicendo, Vittorio sta dicendo una cosa. I portatori di aspetta, questa roba tosse, so. Me l'aveva attaccato un immigrato. Aspetta un attimo, che c'è la tosse. Me l'ha attaccato. Ma che un immigrato. Frega degli immigrati? Questo parla di immigrati che non li ha mai visti. Se non li fotografia, ti rendi conto? Parenzo parla degli immigrati che non li ha mai visti. Non li ha mai visti, come non li ho mai visti io. Se non qualche volta per strada, ma in macchina, la mia bella berlina. Quindi a me degli immigrati non me ne fotte un cazzo. L'ho detto anche durante una trasmissione da lui condotta. Quindi non è il problema, io non ce l'ho con gli immigrati. Se però dopo il flusso migratorio raddoppia la TBC, non posso dare colpa agli svizzeri, non posso attribuire la responsabilità agli austriaci o ai tirolesi. È chiaro che l'immigrazione provoca la diffusione di malattie che qui erano scomparse. Lo vuol capire quest'uomo Parenzo o no? Noi non insultiamo nessuno, registriamo la realtà, la raccontiamo per quello che è, punto, è chiuso, e la smetta di insultare, altrimenti io insulto lui e allora diventa veramente, facciamo la risa Parenzo sostiene che Libero e forse anche altri giornali sono dei giornali sostanzialmente che diffondono razzismo. Ma uno stereotipo a Lucia, ma non sostengo, ma è razzista, è lui il razzista, ma certo che lo dico. Caspita, ma è chiaramente razzista, Parenzo. Uno stereotipo. Ma cosa vuol dire stereotipo? Gli stereotipi riflettono una parte della realtà, non tutta. E la realtà è che le malattie cosiddette tropicali arrivano in Italia e non le portano gli svizzeri. Lo vuoi capire o no? Ma arrivano con gli aerei, con i treni, con gli aerei che arrivano da Zurigo. Ma io non lo so come fai a ragionare così, ma guarda, curati, c'è qualcosa che non funziona nella tua testa. No, Parenzo sta dicendo che per esempio la malaria la possono portare anche persone italiane che vanno... Anche il manager, anche il briatore può portare la malaria, Il 100% dei malati di malaria sono stranieri. Madonna, anche questo dato, si informi presso il Ministero della Sanità. Io ti sto dicendo che Dio non voglia che il mio amico Senaldi va a fare un viaggio in Africa, poi torna dall'Africa, nella sua valigia finisce una fottuta zanzara. Non è che possiamo dire che Senaldi ha portato la malaria in Italia, è stata, i viaggi sono questa roba qui, no? Ho capito, ma mica l'ho portata io, l'ha portata Senaldi. Senaldi poi si porta dietro le zanzare, è un gran coglione, è meglio che vada in paesi più civili. Ma chi è quel coglione che va nel Burkina Faso? Ma cosa c'entra? Ma io non lo so, ma come, ha ragione o no? Ma cosa c'entra? C'entra sì. Arrivano 3.000 africani che va sempre a Malindi dentro di tutto, anche le piattole, se lo vuoi sapere. Le piattole, la scabbia la portano gli svizzeri? Scusami, ma come fai, tu vivi, certo, tu vivi negli studi televisivi, la realtà non la vedi mai se non attraverso delle telecamere del cacchio. Scusami Vittorio, tu consideri i neri, cioè gli africani, sostanzialmente inferiori rispetto a noi? Ma che discorso è? Ma inferiori di che cosa? Gli africani sono africani, cioè sono persone che purtroppo hanno dimostrato di non avere una gran cultura del lavoro, tant'è che vivono nella merda. No, questo è e scappano, quindi io non li giudico inferiori, però posso anche essere autorizzato a pensare che la TBC la portano loro, perché prima non c'era, da quando arrivano loro c'è, quindi l'ha portata loro. Io mi riferisco al titolo di Libero, ed è la verità. La TBC l'hanno portata gli africani, e la malaria non arriva da Vienna. arriva dal Burkina Faso, da altri paesi. Sei mai ma stato, come si fa a non sapere queste mai cose? Sei mai stato in Burkina Faso, no? Io, ma me ne guardo bene, ma ti pare? Io non vado neanche in Sicilia, ti pare che vado in Burkina Faso? Ciao Vittorio, ciao. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. La zanzara. Allora, io vorrei, guarda, tu non mi credi, io vorrei parlare di fica. Allora, caro Davide, per un attimo basta parlare di migranti, di malaria, basta per un attimo. E voglio farti sentire quello che è successo a Vittorione Sgarbi durante questa lunghissima estate. A un certo punto, non so se durante la notte, durante il giorno, eccetera, eccetera, mentre era in macchina lì nei suoi lunghissimi viaggi in giro per l'Italia, vede una Lamborghini gialla. Ah, l'ho visto, certo, bellissimo. Era durante il giorno, mi dicono, Una Lamborghini gialla che ostruisce il passaggio, che un po' va veloce, un po' piano, e comincia a incazzarsi. Non ci sarebbe da chiedersi perché qualcuno compri una macchina di merda come questa, gialla, con la targa 007, Domodossola Empoli 007, bidoppio, e ancora R. Per stare davanti agli altri sempre in corsia di sorpasso, impedendo di procedere regolarmente, andando volta a volta a 80 all'ora, a 120, a 170, a 180, ma semplicemente per esibire il fatto che lui ha il danaro per comprare la Lamborghini. In sostanza uno non può procedere perché c'è davanti quello che fa il bello o il cattivo tempo, perché ha il potere della sua macchina gialla di merda. Siamo quasi stati buttati fuori di strada dal passaggio di questo mentecatto con la sua macchinuccia gialla per fare il bambino deficiente in età adulta. A un certo punto dice la targa e qualcuno lo identifica. Lo abbiamo identificato. Si chiama Balestrini William Balestrini. Balestrini William, con la sua Lamborghini del cazzo, in via Matteotti 38. Beh, se lo vedete, sputategli in faccia. A nome mio, Vittorio Sgarbi. Chiaro? Chiaro? Ma io non capisco perché uno deve sputare in faccia a questo. No, ma questo qua è tra l'altro un imprenditore marchigiano, se non sbaglio, che poi si è incazzato come una biscia, vuole addirittura fare causa a Sgarbi, questo mi sembra esagerato. Ovviamente tutti potrebbero fare causa a Sgarbi in qualsiasi momento, ma se lo Sgarbone ti dice quelle cose, secondo me è quasi un motivo di vanto, quasi un motivo di orgoglio dovrebbe essere. Ma a me che cazzo me ne frega di un figlio di papà che ha una Lamborghini gialla? Cazzi suoi, inutile, lui, la sua fidanzata, sua moglie, facciano quello che vogliono. Ma se cerchi di uccidermi e poi pensi pure di denunciarmi, io ti spacco, niente, ti spacco, perché altrimenti mi denunci per ti spacco. Io ti denuncio con l'indicazione della telefonata alla polizia stradale per attentato alla sicurezza. William Balestrini, tu, tua nonna, tutta la tua famiglia, la tua automobile, non me ne frega nulla di voi, ma tu il cazzo lo rompi a un altro e ti porto in tribunale per attentato alla mia vita. Io sono Sgarbi, sono piuttosto costoso, valgo più di te e dei tuoi soldi che non hai guadagnato. Tu hai cercato di uccidermi, io ti denuncio per tentato omicidio, chiaro? E non rompere i coglioni, tu, tua moglie, tu il cazzo di... e la tua Lamborghini di merda. Ma no, ma come ha cercato di... ho capito, ma come ha cercato di ucciderlo? Ma che dice? No, perché secondo lui, facendo zig zag con la macchina, andando veloce a 180-190, poi rallentando, dice che ha attentato alla vita di Sgarbi. Una vita molto costosa. Vabbè, Michel dalla provincia di Varese, vai. Ciao Cane, ciao Parenzo, buonasera. Dimmi Michel, dimmi. Niente, io volevo fare un intervento riguardo a quegli quattro animali là che dello stupro di Rimini. Sì, dimmi, dai. Come si parla tanto di questa questione? No, niente, sento che qualcuno dice castrazione chimica. Ma quale castrazione chimica? A questi qua bisogna tagliargli le palle con la mannaia. Scusa, la tua ricetta quale sarebbe dunque? La mia ricetta sì? È tagliargli le palle con la motosega. Ecco perché proprio... Sì, ho capito. Perché richiedente asilo, sì. Quello là a prenderlo a calci in culo fino in Africa, altro che richiedente asilo. Ecco, ma perché proprio con la motosega? Spiegami, Michel, non capisco io. Con la motosega... Perché devono soffrire come i cani. Cioè tu dici a uno che commette uno stupro vanno tagliati i coglioni con la motosega. La motosega, assolutamente sì. Con la motosega. Sono degli animali. Oggi leggevo su qualche giornale che hanno fatto una doppia penetrazione. Ma stiamo scherzando, questi qua sono degli animali, devono morire male. Ha parlato il papà del diritto, ha parlato il padre del diritto, ecco, cioè ecco lei, qua, Parenzo, la motosega, ma lei si deve vergognare di esistere, le devono mandare a casa le palle, Parenzo, si vergogni di esistere per quel che dice. Le palle di questi stronzi animali te le devono mandare a casa, impacchettate. Scusi un attimo, però solo di averlo pensato, figuriamoci detto, io mi vergognerei solo di averlo pensato questa cosa, ma lei è una bestia, Lei è una bestia. Io non capisco una cosa. Una bestia, pari quasi a quei criminali lì, guardi. Parenzo si è stufato di lei, di questo schifo. Parenzo si è andato via, si è stufato di sentire questo schifo. Lei è uno schifo, mi dia retta, è uno schifo. Già solo il pensiero, uno quando ha dei pensieri cattivi, insegnavano i maestri, uno li rielabora, prova a capire, a pensarci sopra. Lei invece lo ha buttato fuori, come si vomita, capito? Lei questo ha fatto, lei non ha neanche pensato. Sì, però bisogna anche dire una cosa, caro Davide, il sentire comune. Generalità, tu devi fare questo, primo, generalità di questo signore. Ma perché generalità? Che ha fatto? Ma perché? Perché? Perché? Perché cosa? Perché cosa? Per quale motivo? Perché dice delle cose di odio incredibili. Ma neanche di odio. Ma come si fa? Ma quelli sono dei criminali, è evidente, devono stare in galera, devono avere un processo. Ma che roba è? Gli taglio con la motosega? Ma che è sta gente? Con la motosega, Parenzo, te li mandano a casa a te le palle. Ma perché dovrebbero mandarle a Parenzo? Io però quello che quello a Butungu, a calci nel culo. Vabbè, quello che c'è, tra calci nel culo. Però io voglio capire una cosa. Fino in Africa. Sì, Michel, caro Michel, allora la cosa molto semplice, tu davvero immagini che uno stato possa anche se questo è il sentire comune di molti italiani, no, che di fronte a uno stupro così efferato con i particolari che abbiamo sentito, eccetera, eccetera, certo. Vorrebbero che questi qua fossero ammazzati con le palle tagliate, eccetera. È un sentire con comune. La motosega. Ma perché proprio con la motosega? Perché sei fissato con la motosega? Perché devono soffrire come i cani, Cruciani. Ma ho capito, ma perché proprio la motosega? Alcuna pietà, lascia stare il diritto, lascia stare qualsiasi cosa. Ho capito, ma se lasciamo stare le condanne... Sono bestie. No, ma vanno trattati come bestie, Cruciani. Vabbè, Tommaso da Chieti, dai. Tommaso da Chieti, vai, Tommaso. Che inciviltà. Tommaso, dimmi. Pronto? Dimmi Tommaso, vai. Senta, ma io volevo raccontare una cosa seria, non una buffonata. Dimmi sta cosa seria, avanti, sentiamo. Dice che l'Italia è la culla del diritto. E chi l'ha detto? Io nel 2013, quattro anni fa, sono stato trascinato in tribunale da un mezzo mascalzone che mi ha accusato di aver bastonato dei cani e di averlo minacciato perché li ammazzava i cani. Vabbè, adesso, amico mio, non conosco questa vicenda, francamente. Non conosce la ricetta, perché voi non parlate di cose serie, purtroppo, perché quelli taglia le palle con la motosega, quell'altro non so che cosa gli vuol. Scusami, Tommaso, ma la cosa seria, la cosa sì, ma la per persona seria, ma la cosa seria, sì, ma la cosa seria quale sarebbe, che ti hanno portato? La cosa seria sarebbe che un giudice di pace, sì, un giudice di pace, certificato medico che attesta che nell'occhio del cane vi è una pagliuzza di natura vegetale. Ma a noi che cosa ce ne frega? Vegetale. Ma a noi che cosa ce ne frega? Comunque te ne frega. A me che te ne frega delle tue vicende che t'hanno, che hai bastonato un cane, che me ne frega a me? Beh, esatto. Ma vaffanculo Cruciani, vai, no. Cazzo, no, no, Tommaso, a me, se il fatto richiama questo coglione, intanto Giuseppe da Napoli, richiama questo cretino. Giuseppe, vai. Ciao Cruciani, senti, io chiamavo appunto per questi extracomunitari che arrivano in Italia. Sì. Secondo me ormai c'è troppa saturazione, quelli che vengono li prendiamo assicurate, almeno consumiamo un po' di armi, questo è il mio pensiero. No, no, non è un pensiero questo caso, cioè quelli che arrivano li pigliamo, ormai siamo arrivati a un punto in cui si devono dire... Gli italiani sono razzisti. Ma razzisti. Tu sarai razzista, tu sarai razzista. Ieri dicesti gli italiani se ne fottono di tutto. No, quello è vero, se ne fottono dei rifugiati e tutto. Ma che c'entra i siluri? Che c'entra i siluri? Bene, perché ormai c'è saturazione. E dunque bisogna pigliare assilurate. Che cosa vuol dire concretamente, tecnicamente? Non li facciamo arrivare. Cioè basta, tu dici, appena arriva un barcone spariamo i missili, almeno così li consumiamo. Spariamo. Che cosa? Quei pochi siluri che teniamo, li prendiamo e li buttiamo e ce li lanciamo addosso, così non tornano. Parenzo? Aspetta, aspetta un attimo, Giuseppe, aspetta. No, no, questo. Aspetta, chiamalo un attimo. Aspetta. Tommaso, quello dei cani, eh? Pronto? Tommaso, allora, io non ho capito una cosa. Perché noi dovremmo essere interessati al fatto, alla tua diatriba? Alla tua diatriba? Io volevo parlare con Parenzo. Ma Parenzo sta parlando qua. Che l'Italia è la cura del diritto. Io le sto dicendo che sono stato trascinato in tribunale. Ma io che ne so, ma che mi interessa? Anche. Ma che cosa hai fatto tu? Cosa hai fatto per essere trascinato in tribunale? Non ho fatto niente, io stavo dentro casa mia. L'accusa qual è? Qual è la proprietaria di una vicino a me che fuggivano sempre, mi hanno danneggiata. Alla fine mi sono scocciata e hai detto, senta, non far fuggire tu i cani, perché io ho i miei nipoti. Ma li hai bastonati o no? Il recinto cani? Della mia casa. Va, il recinto della casa. Entrano ancora questi cani, mi faccia parlare. Cosa parego, ma cavolo di piano. Sono Cruciani. Io sarò Cruciani, signor Cruciani. Sì. Io sarò costretto, posso arrivare pure ad ammazzarli. Questo mi ha denunciato. Mi ha denunciato. Per minaccia ai cani. No, ma che minaccia ai cani? Ma non può esistere. E minaccia. E minaccia a loro. Ma non può esistere. 4 anni di tribunale. Scusa, anni. Amico mio, bene, benissimo, ma a noi del fatto che tu sei stato portato in tribunale da un... Ma a noi, che cazzo ce ne frega? Dimmi. Un giudice di pace che ha in mano una sentenza di Cassazione ancora. Che dice che se io dico a una persona non fare venire tu i cani nella, sulla mia proprietà... I cani, amico mio, non è una minaccia perché già mi ha danneggiato. Io l'avverto per non reiterare nuovamente nel danneggiarmi. Sì. D'accordo? Ma scusami, Tommaso, cane aveva un occhio fuori dall'orbita. Il veterinario certificato medico. Il cane aveva una pagliuzza di natura strana dell'occhio, tanto piccolo da essere estratto col microscopio. Scusami. Il giudice di pace, che Tommaso, è un somaro, Tommaso, un venduto, somaro, sì, certo, ha condannato perché il cane aveva l'occhio fuori dall'orbita, nella sentenza. Tommaso. Ma le culle del diritto. Tommaso. È la colpa per i delinquenti. Tommaso. Sì. Amico mio, a me della pagliuzza del cane, del certificato medico del veterinario, non ce ne frega nulla, non ce ne frega niente a noi di questa vicenda giudiziaria. Ma anche a me me ne frega. E allora perché capito? Ci sei venuto a rompere i coglioni? Perché? Sì, e voi rompete i coglioni di continuo tutti i giorni. Ma roba incredibile, Parenzo, gli dici qualcosa per fuori? Perché no, mi pare di una persona che anche al netto, come dire, del modo, delle modalità con la quale si così esprime, però non dice delle cose così, per carità, merita di essere ascoltato anche lui, mi pare, no? Ma ti pare che io posso parlare con Tommaso? Ti pare che io posso parlare con Tommaso? Ma io ogni giorno, scusami amico mio, ogni giorno, con quanti scriteriati devo parlare? Adesso tu non vuoi parlare con questo qui, ma io ogni giorno, con quanta gente mi tocca confrontarmi qui dentro? Infatti da oggi non mi confronto più con nessuno, non mi confronto più. Chi eravamo prima? Giuseppe da Napoli, dai Giuseppe, sì, quello che sì. Vuole sparare allora, i siluri. Parenzo, io attendevo un commento da te però sui siluri di Giuseppe da Napoli. Non riusciamo più a incamerare. Parenzo, un commento sui siluri di Giuseppe. Senti, Parenzo. No, Parenzo parla e come? Parla, ma vorrebbe un suo ricovero immediato. Vorrebbe che il suo nome finisse immediatamente nelle liste, ma non di attesa, del miglior ospedale, il più vicino ospedale di zona. Lei da dove chiama? Da dove chiama? Da quale zona chiama? Napoli. Sono stato, da Napoli. Non è sanitario partenopeo. Non è molto. Noi possiamo Noi possiamo chiamare l'assessore alla sanità. Sì, ma non è il Massimo della Lega. No, non è vero, non è vero. Possiamo chiamare l'assessore alla sanità di De Luca e chiedere un immediato intervento per lei, caro. Sicuramente, però non siamo in uno stato di diritto e quindi no, praticamente non siamo incapaci di accogliere queste persone. La non gente siamo, ha paura. Vediamo se qualche ospedale di Napoli è in grado di accogliere lei. Ciao. Buonasera, benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso il capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là. Da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Nella roba pazzesca! Sì! A vende l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Non ce l'hai. La Zanzara. Ore 20, in reparto una paziente suona il campanello. Mi scusi infermiere, mi aiuta a mettere la radio su Radio Maria, che tra poco c'è il rosario. Certo signora, giro e metto la zanzara, siamo al top. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta la zanzara. Animalisti, è iniziata la festa del sacrificio, neanche uno a protestare. I musli vi fanno il culo e vi sgozzano. E certo, dai, vi rifarete con qualche pescatore di 80 anni. Vergogna, cacasotto, vergogna, brambilla, vergogna. Cruciani, te che dici tanto, viva la libertà, viva le orge, viva le prostitute. Vorrei ricordarti che le prostitute, le donne che fanno le orge, sono loro madri, sono figlie, hanno dei genitori. E la domanda che ti faccio è questa: se fosse tua figlia a fare queste cose, gioiresti così tanto? Io non credo. Ciao. Ma cosa cazzo c'entra il paragone con mia figlia? Cosa c'entra? Non c'entra assolutamente nulla, niente, zero, zero. Però prima di farvi ascoltare Parenzo, adesso chiamiamo un signore che è quel pugile che vuole fare le ronde insieme a Forza Nuova, uno dei simboli della nuova marcia su Roma, un pugile che si chiama Sanavia, non mi ricordo come, il quale vuole partecipare insieme ai tassisti, i quali non hanno nessuna voglia di partecipare alle ronde di Forza Nuova, a tassisti, a non so chi, a ultras, cioè a tifosi da stadio, alle ronde sul territorio e forse anche alla marcia su Roma. A proposito di Rom, voglio farti ascoltare una cosa. A Miano, provincia di Napoli, non vogliono l'arrivo dei Rom nella caserma. C'è addirittura il presidente di un'associazione che si chiama Raffaella Apredda. La guerra tra poveri a Napoli. Sappiamo i Rom cosa fanno, non fanno gli avvocati, quindi abbiamo paura per i nostri figli, non ce la facciamo più a vivere in questa situazione di violenza, che rubano, si ubriacano, non ce la facciamo più. L'ASL che abbiamo a Miano, tutti i servizi medici sono stati mandati nel terzo mondo. La posta sta piena di zoccole. Bravo. Miano sta in ginocchio. Io ma mi faccio una domanda, ma perché poi quando tenete i miei uomini ce li mandate a noi? Dove zoccole in questo caso sta per topi naturalmente, non per zoccole, cioè non per puttane, non per donne di malaffare, eccetera, eccetera. Come alziamo, ragazzi? razzisti, lo sapete benissimo, però non ci potete trattare così, ci state portando a non avere più dignità. Stamattina i milanesi, e non solo stamattina, noi i primi giorni della settimana prossima bloccheremo tutto. E intanto Forza Nuova si prepara a fare non solo la marcia su Roma il 28 ottobre, ma anche a far partecipare pugili, ultras e tassisti alle ronde. Caro David, uno dei protagonisti di questa vicenda si chiama Cristian Sanavia, 42 anni, ex campione del mondo di boxe dei pesi supermedi, chiamiamolo, dai. Pronto? Ah sì, pronto. Cristian? Sì? Come stai? Sono Cruciani, Radio 24, ciao. Ciao, ciao. Ti disturbo? No, no, ma solo dal barbiere. Dal barbiere? Che stai a fare? Non stai preparando le ronde? Poverino. No, no, mi sto facendo la barba e i capelli, perché quando me la faccio a casa spongo dappertutto. Allora sono qua e ho un amico. Ma quali ronde? No, ma tu devi sapere che Cristian Sanavia o Sanavia, come ti chiami? Sanavia è un pugile, 42 anni, che è stato anche campione del mondo di boxe dei pesi medi supermedi, che ha detto di voler partecipare alle ronde di Forza Nuova insieme a tassisti, forse insieme a... Abbiamo le generalità, immagino, perché se lo hai chiamato abbiamo le generalità di questa Sì, perché persona, che vuoi fare col signor Sanavia, scusa? No, chiedo semplicemente se abbiamo le generalità. Ridi pure. Guarda, no, che lei volavi meno, Scusami. Scusi, come ha detto, guardi? Vi picchio. Dai, scherzo. Come non ci ho mai picchiato nessuno, a parte che sono ring, giuro. Scusa un attimo, ma tu... non sembra una persona così normale. Scusami, cioè, ma tu veramente... La mia sicurezza. Ah, questa la fate casino, che non capisco niente. No, ma tu veramente... non capisca nulla questo, diciamo. Allora, tu veramente vuoi far parte delle ronde di Forza Nuova? No, già le faccio fatte delle ronde. Hai fatto delle ronde con chi, scusami? Con la partecipazione della Forza Nuova. Ma le ronde, che è successo durante queste ronde? Niente, assolutamente niente. Facciamo le nostre passeggiate e basta. Ma che le fai a fare? Per proteggere chi? C'è un cazzo da fare, che, dai. Ma scusa, sai, ma che cavolo dicete? Scusate, proteggere i nostri quartieri, le donne. Da chi? Ma da gente come lei bisogna proteggere le persone. Ma scusami, no, ma tu poi vai anche da lei, ragione, è più, no, da lei bisogna proteggere le persone, i cittadini. Ride. Sì, sì. Ma ti sembra normale che adesso, scusami, Cruciani, oggettivamente, dai, ride ogni due minuti ogni cosa, che ti sembra una persona normale. Ma perché ti fai parlare con i disturbati? I miei mi hanno fatto studiare un po', sono cresciuto in una famiglia normale. Perché devo aspetta, parlare aspetta, con aspetta, io invece voglio parlare con Cristian. Voglio parlare con Cristian. Allora, io voglio capire. Isola, chiedi dov'è il nostro regista? Isola questa risata e mettiamola al voto popolare. Se gli immigrati sono un problema, Sanavia. Gli immigrati sono un problema. No, il problema è che l'Italia sta andando a rotolo. A rotoli. Così. Sì. A rotoli, a rotoli. Sta andando l'Italia, non è che cambi tanto. Sì, è la stessa cosa, certo. Assolutamente. Ma lei è in guerra, continua con l'intelligenza, con la sintassi, ma con la grammatica. Non parlare con questa persona. Parenzo è anche di Padova, come te, vicino Padova. Senti, ma nei confronti di uno della questione degli stupri, tu come ti poni, signor Sanavia? Che cosa fareste agli stupratori? Quale sarebbe il rimedio? Io ho due figlie. Allora? Cosa vuoi che fate? Spezzi le gambe. Come? Che vado a dare forze all'ordine e dire cosa ha stupato mia figlia? Provo a prendere io se riesco, se c'è la possibilità. Ho mai provato a farsi visitare, ma è uno bravo però. Ce ne sono i No, io voglio capire una cosa, caro Sanavia. Il problema è molto semplice. Tu vuoi partecipare o no a questa, per esempio, a questa marcia, una specie di marcia su Roma del 28 ottobre che è stata proclamata da Forza Nuova? Andrai o non andrai? Se posso, che riesco con il mio lavoro, che posso prendermi l'impegno, ci andrò. L'immigrazione ha portato più delinquenza, secondo te? Ma non si vede? Ma non lo so, ma non mi fare le domande, no. Dai una risposta tu, non si vede. E ride. Certo che ride, no. Io sono un ragazzo che ride sempre, sono pacifico, io rido. Bravo, ridi. Ma essere pugile può servire? Per cosa? Che ne so? Una persona? Non ho mai picchiato nessuno. Proprio vuoi saperla. Tu sei un po' fascista o no? Sono un po' di destra. Sei un po' leggermente e ride. Cioè, per te Mussolini è un esempio. Scusami. No, io voglio dire. Finiamo questa intervista, poi commentiamo con Cruciani a parte. Allora, prego, signore, mi dica. Scusi. Allora, Mussolini, avanti, Mussolini. Ecco, Mussolini. Mussolini. Ha ucciso ebrei. Per lei è un esempio, il signor Mussolini, o no? Ti rendi conto? Vabbè, insomma, ma certo. È un esempio, signor Mussolini. Come mai è un esempio? Ha fatto la sua storia. Ha fatto la sua storia. Cioè, è un grande statista. Sì, no, ha fatto delle cose per gli italiani. Beh sì, appunto, grazie. Quelli che non sta facendo adesso. Ci stiamo dimenticando degli italiani. Sì, ma che cazzo c'entra questo con le ronde, scusa? Con le ronde, con la marcia su Roma, con Mussolini, eccetera, che c'entra? Va bene, dai, mi prendi il contropiede. La sua situazione è drammatica, ma il suo problema non sono gli immigrati, si fidi di me, l'ho ascoltata in questa intervista interessante, il suo problema non sono gli immigrati, il problema è lei, amico mio, è lei, lei è una persona... il problema lei è una... va bene. Io voglio dire, forse sa cosa può dire lei? Che forse è lo sport che ho preso un sacco di cazzotti, forse può essere che è solo il problema, certo. Ah, tu dici hai preso un sacco di cazzotti in testa, esatto. Dici, questo potrebbe essere questo il problema, dici, no? Però intanto sta organizzando queste ronde, vero? Le ronde. Sì, che cazzo giusto? Succede durante queste ronde? Cosa nulla. Cosa succede? Allora che cazzo le fate a fare? E allora cosa fa? Perché le fate se non succede niente, scusami? Appunto. Si fanno. Per dare sicurezza ai cittadini. Ma i cittadini non gliene frega un cazzo delle ronde che fa. Niente. Chi gliel'ha chiesto di fare? Chi ve l'ha chiesto di fare le ronde? Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento La Zanzara. Miserabili! E a me non me ne frega niente. Parenzo, ma fammi capire una cosa, io sono un camionista. Come ti permetti e chi ti dà l'autorità per rivolgerti ai camionisti dicendo questa gente in senso dispregiativo? Ma chi cazzo ti credi di essere? Cruciani, questo è il pubblico che cerchi? I camionari peggiori? Sono Alessio, il top dei camionari silenziosi, ma che quando sentono questi escrementi umani, di fascisti infami che osannano queste cose, mi viene da dire: Parenzo, ti prego, vattene da questa trasmissione, ma che stai a fare? Da parafulmine per questa feccia, vattene, sei un professionista affermato, cambia tutto, lasciali da soli a questi qua, lasciali da soli, così fanno radio fascio e basta. Che cazzo stanno ascoltando? Cioè, mi viene vengono i conati. Ciao. E a proposito, ragazzi, alle 20:37 il tempo dei tipi da zanzara che rientra dopo le vacanze. Tipi da zanzara. Carlo da Roma, ma lascia perdere. No, ma non c'è Carlo. Non c'è sì, Carlo, c'è Carlo da Roma. Carlo. Fammi sentire Carlo da Roma. Inutile. Fammi sentire Carlo. Senti, Giuseppe. Dimmi, Carlo, dimmi. Ecco, no, buonasera. Io stavo d'accordo con Parenzo sul discorso dei quattro immigrati che hanno stuprato quella polacca. In che senso? Beh, cercavano un po' di felicità, se ne sono accontentati solo di una, dai. Quella viene qui in ferie col marito, bella figa, te ne vai adesso, bella figa che c'è. Vabbè, a Boldrini dovrebbe starci a quel no, posto no, di no, quella. No, amico mio, no, su questo non passi, Su questo non passi. Ma perché non ci mandava Parenzo a luna di notte, a mezzanotte, a farsi una bella passeggiata? Ma che c'entra, Carlo? Cosa c'entra? E poi sotto le stelle, e poi ti arrivano quattro figli della mignotta e te superano la ragazza. E allora? Sono dei criminali, che Parenzo è a favore dei criminali? No, non è a favore dei criminali, è a favore di questi che vengono, vanno a casa, dateci casa, di questi è a favore Parenzo, capito? Papà, dall'arresto domiciliare, Porello, dammogli la casa pure a quello, no? Ma quella va a fare una passeggiata, ma come fa a fare una passeggiata tranquilla? Ma che esempi sono? Sta zitto, cornuto! Forse che tu vuoi a fare una passeggiata e poi vedi quello che ti fanno. Ma non succede. Croccio, stai zitto, non parlare, non dà sempre ragione a sti quattro marocchini. Ci stai eloquendo, questo Pareggio, uomo del secchio, uomo del secchio pieno di merda. Come si fa? Ma è la piscina, tutta bella che c'è allora, da finire. Ci rivuole quello. Perdonatelo. Che lavoro fai? Che lavoro fai? È camionista. Com'è che fa faccetta nera? Bella visita. Chiamate la Digos, chiamate la Digos. Tipi da zanzara. Oh ragazzi miei, a proposito di questa pagliacciata pazzesca di chi vuole fare la marcia su Roma, c'è anche una risposta della Raggi che dice non ci potrà essere una nuova marcia su Roma, non sarà tollerata. Beh, non c'era bisogno di questa cosa, di questa precisazione, sappiamo benissimo che trattasi di pagliacciata. Anche i tassisti pare che abbiano preso una posizione ufficiale per distanziarsi da questa pagliacciata. Ebbene, noi abbiamo fatto un'operazione. Un nostro amico, che è un vecchietto antifascista, un vecchietto partigiano, ha fatto alcune telefonate nelle sedi di Forza Nuova. Pronto? Forza Nuova? Sì, con chi parlo? Sono un partigiano dell'associazione Partigiani. Volevo chiederle, sì. Senta, ma non vi vergognate per quello che avete fatto? Costa, coglione! Cosa abbiamo fatto noi? Avete fatto voi, assassini! Mi che fa... cazzo mi chiami? Bravo, imbecille! Bravo, senti una cosa! Perché avete Pronto? Sì, buonasera, parlo con Forza Nuova. Sì. Sono un partigiano dell'associazione Partigiani. E io ho visto il vostro turpe manifesto dove un uomo nero violenta una donna bianca. Non vi vergognate? Assolutamente no. È una vergogna, dovreste cancellare. Che ci siete ancora voi, che avete fatto danni per 70 anni e ancora continuate. Senti, senti, bello, dovete toglierlo, è una cosa vergognosa. Ma vaffanculo. Quello è un manifesto che è stato fatto nel fascismo quando i vostri alleati marocchini hanno stuprato centinaia di migliaia di donne, uomini e preti in Ciociaria e in Lazio. Quindi è stato fatto per quello, è stato ripreso adesso. Quindi lei ci si deve vergognare, lei non si vergogna che il partito a cui fate riferimento voi sta rovinando l'Italia? Io ho combattuto per i partigiani, la bella Italia. Lei deve vergognarsi, se voi che create questa schifezza con la violenza, fomentate la violenza. Lo chiede alla coppia polacca. Ne avete violentati più voi dei migranti. Sai che è un vigliacco. Forza Nuova? Sì? Senta, sì? Io sono un partigiano dell'associazione Partigiani, ho la mia bella età e ho visto il vostro turpe manifesto dove un uomo nero violenta una donna bianca. Parlando di questo argomento di specifico, le percentuali sono chiarissime, cioè 8 su 10 vengono fatto da negri in questo momento, sono in mezzo di animali, prendono quello, va, ne guarda la figa che assalta addosso. Questo viene fuori dalle sezioni o dai circoli o dai numeri di telefono dei signori di Forza Nuova. Sono il nuovo Ku Klux Klan italiano. Ma secondo me hanno diritto di parola, eh? Hanno diritto di parola. Hanno diritto anche di fare le loro manifestazioni, chi se ne frega. Trattasi di puro folklore. Omar da Treviso, vai Omar. Omar. Ehi, Dai, dimmi. Hai come Beppe? Dai, dimmi. Mezz'ora che sono al telefono. Vabbè, poco. Mezz'ora, 40 minuti. Poco, amico mio, poco, sempre poco. Vabbè, quindi mi rivolgo. Se non ti andava di restare, chiudevi il telefono, punto e basta, no? Vabbè, da stamattina alle 5:30 si lavora, Vabbè, ho capito, abbi pazienza, ma che è colpa mia, che fai, l'autista, che fai tu? No, sono imprenditore. Sei imprenditore, va bene, ottimo. Da fornitori a Genova, allora. Sto tornando a Treviso. Dunque? Dunque, cioè, è dalle 5:30 che lavori? È dalle 5:30 di mattina che lavori? Dalle 5:30. Cioè, quanto lavori tu come imprenditore? In me, quanto lavori? La media sono 11. 11 ore al giorno? Sì, più o meno. Quante sì. Tasse paghi? Quante varo? Non so neanche. Fa tutto il mio commercialista. Vabbè, lo saprai quante tasse paghi, no? Io devo pensare alla mia parte, e la mia parte è quella di produrre. Ma tu sei in viva voce adesso? No, ho staccato il auricolare, ho il telefono in mano, anche se sarebbe una roba fuori legge, però. Sì, diciamolo, sto andando fuori legge. Tu, imprenditore di Treviso, sono totalmente fuori legge, perché sto usando la prima piazzola che vedo, mi fermo. No, ma possiamo anche dare le generalità alla targa della macchina, così c'è subito una multa immediata. Omar, imprenditore di Treviso, sta guidando con il cellulare. Quando si chiama la zanzara, uno è esente anche da queste multe. Molto bene. Questa è la realtà dei fatti. Non pensate di multare Omar, perché non è il caso di multarlo. Sta parlando con noi e vuole dire quello che pensa. Non so su che cosa, Omar, su che cosa. Bene, poi possibile allora, che tu non sai quante tasse paghi? Mi sembra una cosa impossibile. Pagherai il 50, il 60 all'anno? Quante tasse paghi? 200.000 euro? Io 150? Io sono un piccolo imprenditore, pago circa 20.000 euro di tasse. Cioè, che cazzo c'hai? Sei un imprenditore con la pezza al culo, non guadagni niente. 20.000... Sì, esatto. Sono un imprenditore degli anni 10-20. Vabbè, dai, allora? E quindi vi chiamo perché è ora di inquadrare bene la situazione. E qual è la situazione? Allora, inquadrare bene la situazione, che e naturalmente Parenzo, che ti è la vicino, sicuramente dirà che... No, Parenzo è andato alla setta a condurre la sua trasmissione. Se n'è andato, vabbè, meglio. No, io lo dico, non ti preoccupare, vai. Beh, diglielo, poi magari mi richiamate domani, un altro giorno, quando volete. Allora? Gli immigrati, quelli che basta guardare le foto, i video che arrivano con questi gommoni che sono trainati, sono cose che sono... Adesso ne arrivano di meno, con Minniti ne arrivano di meno. Forza Minniti, nuovo presidente del Consiglio, vai, avanti tutta. Omar, allora? Quindi, vedi che Omar, che è anche uno tendenzialmente di destra, tu sarai uno di destra, no Omar? Mi tocca. Vabbè, comunque fai il tifo per Minniti, cioè ormai è diventato trasversalmente uno che può veramente essere il nuovo presidente del Consiglio. Noi facciamo il tifo per il signor Marco Minniti, per il pelatone, per il ministro degli interni, perché in 448 ha fatto diminuire gli sbarchi in Italia. Ce ne frega qualcosa di quello che succede in Libia? Noi sì, per carità, ce ne può anche fregare, ma qui non gliene frega un cazzo a nessuno, né a Parenzo che sta nei suoi appartamenti di Prati, né a Omar che si fa un mazzo così dalle 5:30. Se questi qua vengono massacrati in Libia, sarà certamente un problema che verrà risolto dalla politica internazionale, ma noi non siamo come Gino Strada, che ha il tempo per pensare ai signori che in Libia vanno a finire nelle carceri, la libertà di questi in Libia, e non vengono da noi. A noi ci basta questo per il momento, ci è sufficiente questo, il fatto che in Libia siano trattati male, pazienza, interverrà la politica, la politica estera dei paesi, va benissimo, ma noi a noi gente normale che ogni giorno vive nel quotidiano, non è che si occupa di... Non ce ne frega nulla, sì, non ce ne frega niente. La radio si ascolta, internet si segue quanto si può. Naturalmente non dobbiamo dimenticarci di Zucchero. Ma che c'entra adesso? Che è stato uno dei primi a denunciare, anzi è stato il primo a bandierina. Vabbè Omar, tu perché hai chiamato? Ho chiamato per dire che questi immigrati, loro vengono qui per la patatina bianca. Ma attenzione, fermi tutti. Molto tu vengono qui per la figa, vuoi dire? Certo. Ma no, ma dai, no, ma non è così, dai. È ora di mettere la ciliegina sulla torta e finire. Ma no, non vengono qui per la figa. Vengono qui per la patatina bianca. Sono 30 anni che guardano la TV con la parabola. Ma non credo che vengano per la figa, dai, su. Vabbè, tu dici che guarda, vengono qui per questo. Cioè, tu dici che vengono per scopare, perché dici che possono trovare quella che tu chiami la patatina bianca. Perché gli piace, guarda la polacca. Vabbè, cosa c'entra adesso? Non è che ci sono stupri ogni giorno. Questo è un esempio. No, però è interessante quello che tu dici. Alla fine vengono per la patatina bianca. Cioè, attratti dal miraggio della società occidentale, dove può darsi che si può scopare più facilmente. Dici così? E vedono naturalmente che la giustizia funziona all'italiana. E quindi cosa fanno? Dicono, non ci mettono in galera, non ci fanno niente, la patatina ci piace, andiamo. Vabbè Omar, ciao. Siamo Antonio. Di 80 kg e ti dico l'ultima. Dimmi l'ultima Omar. In Sardegna. Sì. Bellissima Sardegna. Loro mi hanno detto, una sera che ero in discoteca, mi hanno detto... Discoteca, le grandi fonti della discoteca, dimmi. Sì. Mi hanno detto, tu fai pure la tua vacanza qui. Però Se guardi un po' di più le nostre donne, noi ti lasciamo le gambe intere per andare a casa e basta. Che vuol dire? Chi te l'ha detto questo? Un sardo. A chi? Bussardo è venuto lì, molto gentile. Ma cosa detto, c'entra questo? Scusa. Le cose stanno così. Cosa c'entra? Che noi ci siamo ramolliti. E allora? I sardi no, dice. Quindi, i sardi no. E i sardi no. I sardi no, perché sardi difendono loro donne, nel senso, quella è quella. Ma quella è barbarie. Ma quella è barbarie che non si può nemmeno guardare in faccia una donna. È stato molto inquadrato, anche ha inquadrato la situazione e non è successo niente. Vabbè, Omar, ciao. Sì, sì. Ciao Omar. Antonio, ciao, da Roma. Te. Antonio, Roma. Ciao, senti, io volevo dire. Sì, però parla senza viva voce, ti prego. No, non c'ho viva voce. Auricolari, cose, no, cazzi, no. No, no, non c'ho nulla, te lo vabbè, dico. Allora, dimmi. Senti, volevo dire che se questi immigrati devono venire in Italia a stuprare, uccidere, rubare, lanciare bombole del gas contro gli agenti di polizia, ma a questo punto non bisogna neanche andarli a soccorrere in mezzo al mare. Per me rimangono lì, se poi le onde del mare li riportano in Libia va benissimo, capito? Perché siamo stufi, siamo stanchi, non li sopportiamo più. Dove abiti tu, Antonio? A Roma. Dove? Vicino Leur. Vicino? Leur. Vicino Leur, sì. Quartiere borghese dunque, quartiere ricco. Quartiere ricco. Diciamo di sì. Hai mai incontrato un immigrato in vita tua? Cioè, Roma è piena. Ma è piena, mai incontrato, hai mai avuto problemi con gli immigrati? Cioè, non abiti in un quartiere sensibile, non abiti in un quartiere dove c'è un problema di immigrazione. Ma il problema è sotto gli occhi di tutti. Se tu ti fai una passeggiata a Torpignattara, ormai quello è un quartiere completamente dunque islamico. Tu dici che non bisogna nemmeno soccorrere il mare. Sì, arrivare a questi estremi. Perché ricordati che Butungo con Barcone, sì, eh? Anche Capobbo, il piccolatore, quello di Milano, che ha ammazzato quattro cristiani. Senti, ma tu come giudichi uno come Gino Strada che ha detto che Minniti è uno sbirro? Gino Strada è un poveretto. Un poveretto. Giuseppe da Frosinone. Anche commenti. Giuseppe da Frosinone, vai. A Brucia, dimmi Giuseppe. Avete rotto le scatolette. Qua bisogna che pure voi dovete prendere una decisione. Così, che decisione dobbiamo prendere? Una posizione. Noi non dobbiamo prendere nessuna decisione, noi facciamo la radio. Fai la radio, però fammi capire. Tu non ti schieri mai da nessuna parte. Ma mi sembra che ascolta. Questa gente ha rotto i coglioni. Ma chi? A noi, a tutti, e hanno rotto i coglioni pure sta gente che li porta qua. E mo va riprendendo la telefonata. E allora che facciamo? Che mio, facciamo? Là, Romano, senti a me, quello là, Romano Carlo, no? Sì, Carlo. Che sì. Ha detto fa il camionista pure lui. Sì, perché pure, tu fai il camionista tu. Io faccio il camionista pure io. E non puzzi, come dice Alessio, quello da Pescara. Non puzzi, non sei uno zozzo, uno schifoso. Io puzzo, c'ho un sacco di vizi pure. Che vizi c'hai? Vai a Mignotte. C'ho tutti i vizi del mondo. Cioè, hai una moglie e vai a Mignotte, questa è la realtà. Ho tutti i vizi. No, ma dimmelo, hai una moglie e vai a Mignotte, sì o no? Mi piace mangiare, mi piace bere, mi piace lavorare. Beh, però sono una persona onesta. Qua gli italiani sì, ma onesti. Ma non me ne frega niente. La sì, ma vabbè, si è rotto i coglioni. La cosa che voglio sapere, hai una moglie, sì o no? Io ho una moglie, sì. Vai a Mignotte ogni tanto, sì. Dimmi la verità, confessa. Dimmi, allora, confessa. Confesso, vado a Mignotte. Senti un po'. Quante volte a settimana? Ma quando ce la faccio? Perché io lavoro troppo. Lavori troppo, non ti regge la pompa poi. Hai capito, no? Qua noi ma tua moglie lo sa che vai a Mignotte o no? Certo. Come lo sa? Che lo sa, se sto a casa ogni 10 minuti stiamo a fare quello, se sto 15 giorni fuori che succede? Vabbè, ciao amico mio, ti devo salutare. Ciao. Domani ragazzi, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.